E per me è Natale tutto l'anno. E per me è Natale tutto l'anno. Come quando aspetto i regali alla mattina, perché sono un bravo ragazzo. Senti come il cazzo suona, come Dolce Gabbana, Dio non perdona. Senti come cazzo suona, come Chanel e Levis. Ma hai messo di Aldora, ma d'oro bianco la mia collana. Ho la fede al destro, perché ho come sposa l'arte. Non mi sposerò di certo con un cesso, non sarà buttarmi giù. Certo, la tua logica di parte, sì, che K1, Gucci e Prada, made in Cina, overi. È da quando sono nato che dai soldi per quelli veri. Stasera al mio loft do una festa, casetta fatta con riciclo di architetture usate, tutti i mobili presi dai miei amici. Porta il vino buono, io la carne, porta un po' di amici che si riparte alla grande. New punk, new chic, come mettere il primo figo straccio che ti viene in mano. New cool life, per riprendermi una ragazza al braccio nonostante il mio cazzo pazzo. New punk, new chic, come mettere il primo figo straccio. New cool life, per riprendermi una ragazza al braccio nonostante il mio cazzo pazzo. CK1, Gucci e Prada, made in Cina, overi. È da quando sono nato che te hai soldi per quelli veri. Stasera al mio loft ho una festa, casetta fatta con riciclo di architetture usate, tutto da mobili di miei amici. Porta il vino buono, io la carne, porta un po' di amici che si riparte alla grande. New punk, new chic, come mettere il primo figo straccio. New cool life, per riprendermi una ragazza al braccio nonostante il mio cazzo pazzo. Per me è festa tutto l'anno, è Natale tutto l'anno, è Natale tutto l'anno. This is a fucking Christmas, every night, every day. Today. Oggi è mercoledì, amici, fate una festa anche per me. Non dateci poco, dateci di dentro. Fate una festa anche per me. New punk, new chic, come mettere il primo figo straccio al braccio. New cool life, per riprendermi una ragazza nonostante il mio cazzo pazzo. Nonostante il mio cazzo pazzo. Stasera il mio love dog, una festa.